Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, in attesa domani anche di un vertice importante, lo ha anticipato oggi il ministro Giovannini. Domani convocate le parti sociali anche per discutere del mercato del lavoro, in particolare quelle che riguardano il disegno di legge lavoro e legate all'Expo 2015. Alcune modifiche, ma al di là di questo, oggi ci occuperemo di un tema che obiettivamente può andare sotto questa domanda. Può un paese che ha difficoltà a reperire risorse di qualunque tipo, che ha difficoltà a pagare i 100 miliardi che lo Stato deve alle imprese, che le sta dilazionando, che non riesce a trovare soldi per ridurre il cuneo fiscale, può un paese di questo tipo, che viaggia sempre vicino al limite del 3% del deficit sul PIL, rinunciare a decine di miliardi che l'Europa ha assegnato all'Italia? Perché sono 17 miliardi di euro di fondi europei, a cui si aggiungono 13 miliardi di cofinanziamenti nazionali che devono essere spesi entro il 31 dicembre, 30 miliardi che devono essere spesi entro il 31 dicembre, altrimenti vanno a qualche altro paese, tra virgolette, nostro concorrente, quindi sempre dell'area euro. Perché dico 30 miliardi? Perché questo è quello che resta dei quasi 50 miliardi di fondi strutturali. L'Italia finora ne ha spesi 20, appunto, resta il 60%. Allora, mi sembra un lusso inaccettabile rinunciare a 30 miliardi, che vogliono dire sostanzialmente 2 punti di PIL, un paio di manovre finanziarie, perché non si è stati in grado di spenderli e non di sprecarli e non di mangiarli con truffe ed altro genere. Attenzione però ai luoghi comuni, questa è una puntata forse oggi contro i luoghi comuni, adesso vi spiego anche perché. Perché il centro-nord ne ha utilizzati il 50%, che non è tantissimo, è una cifra, lo dico anche per il centro-nord, sotto la media europea, ma è sicuramente meglio di quello che riesce a fare il sud, solo il 36%, allora proprio nell'area più svantaggiata del paese, economicamente più in difficoltà, si riesce meno a utilizzare questi soldi, addirittura in Campania solo il 30%. Ripeto, la media del nostro paese è il 38%, pensate che peggio di noi fa solo la Romania con il 26%. La Spagna e la Grecia hanno speso il 61% dei fondi che hanno ricevuto, la Germania, che uno dice non ne ha forse bisogno, ne ha spesi comunque il 61%. L'Italia, tra l'altro, va detto, negli anni scorsi è riuscita in realtà a spendere il 99% delle risorse comunitarie, poi vi racconterò anche perché in alcuni casi, cioè spendere 9.900 euro per la giostra del castrato a Longobucco in provincia di Cosenza, o spendere 8.000 per la festa dell'uva a Catanzaro, o spendere 800 alla Puglia per la liquidazione del servizio hostess alla 3 Expo Venice del 2010, o 10.000 euro per il piano di comunicazione del gemellaggio Miami meets Margherita di Savoia, Margherita di Savoia è un comune della provincia di Barletta, e spendere a Vibo Valentia 14.000 di soldi europei per l'evento Le Conversazioni del venerdì, non mi sembra un buon modo così a naso per fare investimenti strutturali in grado di rilanciare la nostra economia per il futuro e trovare un lavoro per i nostri figli. Per cui vanno spesi bene, ma la cosa scandalosa è che non riusciamo nemmeno a spenderli, e ripeto, entro il 31 dicembre del 2015 dobbiamo riuscire a spendere questi 30 miliardi. Il tema del lavoro però, ecco perché dicevo è una puntata forse contro i luoghi comuni, entra in un altro modo. Allora, io non voglio entrare nelle polemiche tutte politiche sulle frasi del vicepresidente del Senato, sul ministro Kyenge, si commentano da sole, dai. Però dietro c'è una logica, vedevo poco fa anche il rappresentante della Lega Matteo Salvini, insomma, occupatevi del lavoro che viene rubato, la logica poi è questa, dagli extracomunitari agli italiani. Allora, fermo restando che Più volte abbiamo cercato di spiegare che non è così, che molti di questi lavori sono lavori che gli italiani non vogliono fare. Ma scusatemi, oggi ne parleremo in apertura. Il ministro Giovannini, nell'illustrare alcuni dati del rapporto sull'immigrazione del Ministero del Lavoro, fa notare come i cittadini stranieri disoccupati sono 385.000, cioè il 14% della forza lavoro. Vuol dire 4 punti percentuali in più rispetto agli italiani disoccupati. Quindi non è vero statisticamente, poi uno può avere le idee che vuole, statisticamente la disoccupazione tra gli stranieri è più alta di 4 punti, non di poco, rispetto a quella degli italiani. Io vorrei che fosse più bassa quella degli italiani, in primo luogo, e possibilmente anche quella degli stranieri, ma insomma non è vero che lo straniero non è disoccupato perché ruba il lavoro agli italiani. 14%. Tra l'altro, sulle retribuzioni, la retribuzione media dell'occupato straniero, chiaramente in regola, è 968 euro contro i 1.304 euro della media del lavoratore italiano. Basse tutte e due, sono 436 euro di differenza. Quindi attenzione che comunque il lavoratore italiano in media viene pagato di più, poco, perché è poco, 1.300 euro, ma di più. Lo dico così, evitiamo, poi ognuno può dare le definizioni che vuole, se ne assume la responsabilità, a maggior ragione se ha ruoli istituzionali. Ma iniziare una campagna continuando con questo luogo comune che lo straniero rubi il lavoro in italiano non è una cosa seria ed è una cosa che non passerà mai in questo programma, a maggior ragione quando i dati dicono esattamente il contrario. Detto ciò, questi temi, la borsa è uno dei temi come sempre, più 0,80% Milano, più 0,50% Parigi, più 0,12% Francoforte, più 0,50% Londra, l'euro a quota 1,30,43, molto bene oggi Mediaset, ne parleremo durante i mercati, più 6,65% a 3,43€, Azimut più 2,80€, ST Microelectronics più 2,1 come Ansaldo STS, Diasorin più 2%, Campari più 1,80 come Salvatore Ferragamo, Prismian più 1,60 come Generali, Fiat più 1,5, Exor più 1,40%. Su Mediaset si attende molto il 1 agosto per vedere se saranno confermate le previsioni di un aumento della raccolta pubblicitaria, ma chiaramente molti investitori ci stanno scommettendo. Chi va male oggi? Alcune banche, ma devo dire nulla di particolarmente evidente: la Popolare di Milano meno 3,60, Ubibanca meno 0,90, Popolare Emilia Romagna meno 1,20, Fondiere 6 meno 1,5. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, all'ascoltatore che dice vabbè che sono un comunista non c'è problema, l'altro ieri era un berlusconiano perché ha dato ragione a Berlusconi sulla Germania, va bene così. A chi dice focus economia o focus politica, mi sembra che lei dovrebbe fare la domanda in maniera un po' più precisa, perché la distinzione tra economia e politica in senso stretto la vede solo lei. È ovvio che ci occupiamo di economia, i dati che commenteremo sono quelli del Dipartimento del Ministero del Lavoro. Il tema economico del lavoro degli ex comunitari viene utilizzato in chiave anche politica, ma non è oggetto di questo programma. Allora, le altre notizie: la benzina, non si fermano i rincari, anche qui oggi nel fine settimana i prezzi per IP e ESSO aumentano di 0,5 centesimi al litro. Il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato ha disposto un richiamo ai petrolieri, ogni tanto, le prime volte che lo vediamo, per quanto riguarda l'aumento dei prezzi dei carburanti. E tra l'altro, sempre sulla benzina, il presidente dell'autorità di garanzia per gli scioperi Roberto Alessia ha convocato il prossimo 17 luglio i rappresentanti delle compagnie petrolifere Shell Italia, Enit, Amol Italia, Total Erg, Esso Italiana, Kuwait Petroleum Italia, API e il concessionario Autostrade per l'Italia per discutere i temi oggetto dell'avvertenza con le associazioni dei gestori che hanno determinato lo sciopero sulla rete autostradale previsto da domani fino alle 6 di venerdì, quindi non si potrà fare benzina sulla rete autostradale. Sentiamo sulle ragioni di questo sciopero, sul perché il segretario nazionale della di FEGICA CISL Alessandro Zavalloni, intervistato dalla nostra Cinzia Caserio. Un'intera categoria di lavoratori, centinaia di imprese di gestione, oltre 6.000 lavoratori che trovano allocazione in queste imprese, rischiano il posto di lavoro e essere espulsi, non per ragioni di mercato, non per ragioni legate alla crisi, ma semplicemente perché aggredite da compagnie petrolifere e concessionari che violano leggi e accordi siglati in sede istituzionale. Noi ci saremmo aspettati prima di tutto dal governo, dal Ministero dello Sviluppo Economico che intervenisse, invece più che indifferenza non abbiamo riscontrato. Dobbiamo invece dare atto con grande rispetto dell'intervento della Commissione di Garanzia e del Presidente Alesse, che normalmente dovrebbe intervenire sugli scioperanti, cioè su di noi, che invece ha immaginato che di dover intervenire e di convocare i nostri interlocutori, compagnie petrolifere e concessionari. Da questo incontro noi certamente ci aspettiamo che emergano le vere ragioni, le responsabilità che hanno aggravato questo tipo di vertenza e che in ultima analisi portano allo sciopero che inizierà mercoledì, martedì notte sostanzialmente. Ma noi continuiamo a confidare che il governo, nella sua collegialità, a cominciare dalla Presidenza del Consiglio, assuma finalmente la responsabilità di intervenire. E però è arrivata un'ultima ora, perché è stato confermato comunque lo sciopero dalle 22 di domani alle 6 del 19 luglio dei benzinai nelle aree di servizio poste lungo tutte le tratte autostradali tangenziali e raccordi compresi. Lo hanno annunciato circa un quarto d'ora fa FAIB, Confesercenti, FEGICA CISL e ANISA Confcommercio, spiegando che il governo comunque è stato indifferente alle denunce dei gestori. Andiamo all'estero, perché rallenta la crescita del PIL cinese, ma io eviterei di stracciarmi le vesti ancora. Più 7,5% contro un 7,7%, un rallentamento assolutamente in linea con le previsioni degli economisti. Sempre dall'estero, oggi la trimestrale di Citigroup, che ha chiuso il colosso bancario americano il secondo trimestre dell'anno con un utile che è balzato del 42% a 4 miliardi e 180 milioni di dollari, superiore a ogni attesa. Pensate che l'anno scorso, quindi nel secondo trimestre dell'anno scorso, l'utile fu di 2 miliardi e 950 milioni, qui siamo a 4 miliardi e 180 milioni. Ancora dalla Grecia invece è iniziata oggi una settimana cruciale, perché praticamente sono mobilitate varie categorie di lavoratori contro le politiche del governo sull'occupazione. Il governo sta incontrando difficoltà nel convincere i deputati dei due partiti della coalizione a votare a favore dei provvedimenti legislativi in discussione in Parlamento. Sono in stato di agitazione i dipendenti delle autonomie locali, ma anche contro il disegno di legge governativo che prevede l'abolizione della polizia municipale e del corpo delle guardie scolastiche. I sindaci di tutte le città greche minacciano le dimissioni nel caso in cui venga approvato il disegno di legge. E poi i giornalisti della televisione pubblica greca RT sono ancora in lotta contro la chiusura dell'azienda, il personale degli ospedali pubblici sciopera per motivi che riguardano il settore della sanità. E poi i due maggiori sindacati del paese hanno indetto per domani uno sciopero di 24 ore. Giovedì arriverà ad Atene il ministro delle finanze tedesco in visita ufficiale, il falco Wolfgang Schäuble. Allora, noi spesso abbiamo criticato la linea che si è tenuta sulla Grecia, più di umiliazione che di altro. Però sui dipendenti pubblici greci, fatemi dire una cosa, erano 750.000 all'inizio della crisi, il 25% degli occupati, cioè uno su quattro in Grecia faceva dipendente pubblico, contro una media europea di uno su sei, se va bene. E poi avevano dei privilegi pazzeschi, cioè le famose zittelle d'oro, oltre 40.000 figlie non sposate di dipendenti pubblici, fino a che non avessero trovato un marito potevano godere di una pensione di reversibilità ereditaria pari a 1.000 euro al mese. Costava mezzo miliardo all'anno allo Stato greco. Riguardava anche le nubili, oltre che le divorziate. In questo modo poi uno un marito non se lo becca più, o comunque cerca di non farlo sapere. bonus sullo stipendio, 20 bonus sullo stipendio, finivano per raddoppiare lo stipendio dei dipendenti pubblici. Pensate che in Grecia c'era il bonus per il dipendente che arrivava in orario, che è bellissimo, va bene tutto, ma il bonus a chi usava il computer, il bonus per chi conosceva le lingue straniere. E il dipendente pubblico greco non era licenziabile, poteva andare in pensione dopo 25 anni di servizio. La tredicesima era pagata già a metà Pasqua e poi metà durante l'estate, la quattordicesima a Natale, tutti avevano anche la quattordicesima. C'erano 10.000 persone che vivevano di commissioni statali, no? 230 milioni di euro l'anno. E poi ce n'era una bellissima che nemmeno in Italia riusciamo a arrivare a tanto, la commissione che doveva gestire le acque del lago Copais. Peccato che il lago si sia prosciugato 80 anni fa, quindi è difficile gestire un lago prosciugato. Quindi, massimo rispetto per la Grecia, massima critica per il modo in cui abbiamo gestito la crisi greca in Europa, però adesso diciamola tutta, i dipendenti greci vivevano pubblici, vivevano in un altro mondo e in un mondo nemmeno così corretto. Vabbè, chiudiamo sull'Italia, lo spread è a 290 punti base, anche la Spagna è a 320 punti base, il fisco, la denuncia della Confcommercio, il gettito locale è aumentato del 500% dal 92 in poi, le imposte riconducibili alle amministrazioni locali sono aumentate da 18 a 108 miliardi, lo dice la Confcommercio con uno studio col CER che analizza le dinamiche legate al federalismo fiscale. Nello specifico le regioni, le province e comuni hanno fatto più 126% nel prelievo fiscale, gli enti previdenziali più 127%, con il risultato che la spesa pubblica complessiva è raddoppiata. Cioè la spesa pubblica di regioni è aumentata del 126% e quella degli enti previdenziali del 127%. Visto che noi raccontiamo in una rubrica che oggi non lancio gli sprechi anche e soprattutto delle regioni, delle province, dei comuni, noi da sempre siamo per un federalismo intelligente, a partire dai costi standard. Non ha senso che la sacca di plasma a Aosta rispetto a che quella di Reggio Calabria costi 16 volte quella di Aosta. Però, attenzione, federalismo fiscale, costi standard, non, diciamo, sbloccare il patto di stabilità interno in modo da non premiare le amministrazioni viziose e premiare invece le amministrazioni virtuose, quelle che hanno saputo risparmiare, tutto giusto. Attenzione, più 126% nelle spese di regioni, regioni, province e comuni, si commenta da solo. ...349-238-6666 per i vostri sms, poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Restiamo in tema di lavoro, questa volta lavoro e immigrazione, e visto che purtroppo è un tema di carattere politico, non ci occuperemo di quello, ma diciamo nel giorno in cui la politica discute, addirittura con una presa di posizione del Quirinale, su determinati atteggiamenti nei confronti degli extracomunitari e di una dichiarazione, diciamo, irripetibile, inaccettabile del vicepresidente del Senato Calderoli, vedo, ripeto, dichiarazioni del nostro ospite, anche alcune volte, lo deputato Salvini, Matteo Salvini della Lega, che dice che il governo si occupi del lavoro. Allora oggi, stranamente, il Ministero del Lavoro ha reso noti i dati e i risultati del rapporto annuale sull'immigrazione. Allora, vediamo di non essere provinciali. Gli extracomunitari sono presenti in tutti i paesi europei. Le economie che noi citiamo ogni tanto a modello, penso alla Gran Bretagna, penso agli Stati Uniti, hanno un altissimo tasso di lavoratori, diciamo, non nati in America. Questo vale per la Germania, dove c'è la comunità turca più importante al mondo dopo la Turchia, vale per la Francia, che ha accolto moltissimi nordafricani e cittadini comunque anche del Centrafrica, delle ex colonie, vale per la Gran Bretagna, già la ricordavo. Nessuno di questi paesi, che hanno esperienze da molti più anni di noi, racconta la favoletta che questi lavoratori sono venuti a rubare il posto agli inglesi, ai francesi, ai tedeschi. Sono venuti a fare, come facevamo noi negli anni 50, quando emigravamo noi, il lavoro che i tedeschi, gli svizzeri, ci sono tanti italiani che vanno a lavorare in Svizzera ancora, e anche in Germania, che gli svizzeri, i tedeschi, i francesi, gli inglesi non volevano fare. Non volevano fare perché lo stipendio era troppo basso, sono d'accordo, ma non lo volevano fare. Allora, nel 2003 la popolazione straniera italiana montava 1,5 milioni di abitanti, attualmente siamo all'8% della popolazione totale, 4 milioni. Come va l'occupazione straniera in Italia? Allora, dati del rapporto sull'immigrazione del Ministero del Lavoro, sono 385.000 gli stranieri disoccupati, il 14% del totale, ossia 4 punti percentuali in più rispetto alla media tra gli italiani. Gli stipendi, li ricordo di nuovo, in media un italiano guadagna 1.304 euro, un lavoratore, uno straniero 968 euro. E ancora, la stima dei flussi di manodopera per il 2013 indica inoltre 10 milioni il volume complessivo dei contratti che si sono accesi, e quelli degli stranieri sono 3 milioni, di cui 800.000 però sono stranieri, per modo di dire, cioè sono dell'Unione Europea, per cui sono 2.700.000 quelli extracomunitari. Allora, professor Giancarlo Blangiardo, che insegna demografia all'Università Bicocca di Milano, ma è uno dei massimi esperti di immigrazione e collaboratore della Fondazione ISMU, buonasera. Buonasera. Il rapporto fotografa una situazione che, ripeto, va contro anche molti luoghi comuni, cioè sono più disoccupati gli stranieri rispetto agli italiani e, il secondo aspetto, si poteva immaginare, guadagnano di meno. Sì, assolutamente sì, cioè, ma la disoccupazione deriva dall'effetto crisi che ha colpito in modo particolare alcuni settori, pensiamo alle costruzioni, l'edilizia, certo, nei quali gli stranieri erano presenti in misura massiccia. C'è anche meno protezione da certi punti di vista, cioè è chiaro che gli italiani, soprattutto poi se andiamo a parlare degli stranieri irregolari, è addirittura un altro discorso, ma comunque sia, gli italiani sono più garantiti rispetto ai discorsi di disoccupazione, gli stranieri lo sono meno, quindi hanno delle situazioni certamente di svantaggio rispetto alla manodopera locale, e naturalmente poi quando succedono le cose che stanno succedendo sono forse i primi a risentirne, tant'è che si è notato negli ultimi tempi, diciamo un paio d'anni, forse più l'ultimo anno, che l'Italia è diventata molto meno attrattiva rispetto alle immigrazioni, e spesso capita di soggetti che o se ne sono andati o che hanno intenzione, dichiarano esplicitamente un'intenzione a rientrare, qualche volta mandano addirittura al paese d'origine i familiari perché qui la situazione è diventata un pochino più difficile, quindi c'è il sentore di un cambiamento rispetto agli anni di forte crescita del passato, e naturalmente il mercato del lavoro è forse l'elemento trainante che spiega molto di queste dinamiche. Ecco, questo è un dato che voi vedete non solo in Italia, in tutti i paesi, ogni volta che c'è una crisi questa, cioè che la crisi va a scaricarsi, tra virgolette, sia sugli abitanti, sui cittadini di quella nazione, ma colpisce anche quelli meno tutelati, quindi mi riferisco agli stranieri più o meno extracomunitari e con i lavori più bassi? Direi di sì, cioè, d'altra parte come dire, uno degli elementi appetibili dell'immigrazione straniera è un po' la sua flessibilità. Flessibilità vuol dire che quando le cose vanno bene vengano e si trova facilmente, certo, l'inserimento, quando vanno meno bene sono i primi in qualche modo a pagarne le conseguenze. In Spagna ad esempio la cosa è stata ancora più drammatica se vogliamo fare dei confronti a carattere europeo, quindi In Spagna siamo tutti nella stessa barca. La disoccupazione ha colpito ancora di più i lavoratori extracomunitari rispetto a noi? Direi di sì, ma anche perché si è abbattuta alla grande sull'area di costruzione. Naturalmente lì, come abbiamo detto anche in Italia, c'è una forte presenza di Ecco, dopo il meteo vorrei sapere una cosa però. Perché invece è molto forte, vedo anche i messaggi, la sensazione, o meglio due valutazioni che tengo distinte. Una che il lavoratore è straniero, che poi vuol dire spesso extracomunitario, se ben capisco gli sms, rubi il posto agli italiani. L'altra che in realtà abbia un effetto calmiere, ossia tenga bassi gli stipendi, a dire il datore di lavoro offre 800 euro, nessun italiano farebbe quel lavoro per 800 euro e lui sarebbe obbligato a offrirne 1000 se non ci fossero i lavoratori stranieri, che quindi accettando 800 euro di fatto occupano il mio posto perché io non potevo vivere con quella cifra. Secondo me è un ragionamento molto molto delicato, perché poi se vi mettete nei panni del datore di lavoro, che sia il proprietario di un bar, di un ristorante, di un'impresa, parliamo di lavoro regolare, ci mancherebbe. Beh, bisogna capire anche se lui sarebbe contento di pagare 20-30% in più quel tipo di lavoro, perché poi questo deve competere nel resto d'Europa, dove gli extracomunitari ci sono. Ma detto ciò, vorrei capire se da un punto di vista economico le due cose hanno una loro logica e un loro senso. Dopo il meteo, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. ...17:37 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, professor Blangiardo, vedo che molti scrivono, l'ho fatta la domanda, da un punto di vista economico, ha un senso dire che lo straniero fa il lavoro dell'italiano, e quindi ruba il lavoro dell'italiano, da un lato, e dall'altro tiene più bassi i salari, e quindi in realtà il motivo per cui fa il lavoro degli italiani è perché accetta livelli salariali più bassi? Allora, secondo me fino al 2007 non c'era problema, cioè nel senso che la collocazione degli stranieri in ambiti del mercato del lavoro, che spesso, non dico tutti, ma spesso i giovani italiani non volevano fare, era un classico. Negli ultimi anni, forse qualche giovane italiano si è un pochino smosso e quindi ha cominciato a pensare che forse poteva fare anche altre cose. E magari insomma una forma di concorrenza in un certo senso da questo punto di vista può essere arrivata, non è ancora generalizzata perché insomma c'è sempre una certa resistenza, però insomma alla fine qualcosa sembra. Sul discorso dei salari, insomma, qui ci sono delle regole di mercato. Ora non dimentichiamo che ci sono degli ambiti, pensiamo alle famiglie, nelle quali l'avere dei livelli retributivi non esageratamente alti fa sì che si sviluppi la domanda, cioè è chiaro che se si dovessero pagare le colf, le badanti a livelli, come dire, come oddio, per esperienza diretta ormai ci siamo quasi, gli stipendi non sono bassissimi, sì, però forse si può fare anche di più. Sì, no, lei dice se c'è tutta una massa di lavori che se dovessero essere pagati con stipendi da italiani, o quello che vorrebbero giustamente gli italiani, metterebbero in seria difficoltà le famiglie che li usano. Parliamoci molto chiaramente, professore, perché poi di questo stiamo ragionando, no? Ma lei mi fa notare come dal 2007 in poi invece quella che prima non era un problema, era solo un luogo comune, un slogan politico, perché tanto comunque il mercato del lavoro era in espansione, sta invece mutando, diciamo, nella sua definizione. Sì, c'è da parte, mi è sembrato di cogliere, da parte dei giovani una maggior disponibilità, se vogliamo per disperazione forse, ma però sta di fatto che c'è un'offerta che viene anche dalla parte italiana e naturalmente questo potrebbe far nascere qualche problema di concorrenza. Ma perché dice qualche problema di concorrenza? Secondo lei un datore di lavoro a parità, diciamo, di offerta non preferisce, e di specializzazione, ci mancherebbe, non preferisce l'italiano? Così, giusto per magari per la lingua, per altri motivi? Ma non forse una volta era più facile, adesso ormai c'è una certa consuetudine, cioè uno sa che insomma una volta che è chiaro quello che si deve fare, lo straniero insomma qualche volta ci mette anche un pizzico di produttività in più, secondo me, perché rischia di più, quindi deve in qualche modo dimostrare di compensare il gap rispetto, come dire, all'italiano che parla la lingua, eccetera. Quindi io credo che alla fine, ma insomma, non ci sia da parte del datore di lavoro questa particolare preferenza per il suo connazionale. Mi scrive un ascoltatore, Alberto da Cremona, dice sì, questo è un caso di cui ci siamo già occupati, tra Cremona e Brescia ci sono tutti i mungitori di un'area molto importante perché è un'area zootecnicamente fondamentale per il paese, i mungitori sono tutti indiani e dice si beccano 3.000 euro al mese e non riesce a trovare un italiano. Vabbè, questo è un caso, non voglio generalizzarlo, però è chiaramente un caso. Io penso che ci siano anche delle resistenze culturali, giusto o non giusto, non mi interessa. Uno dice, ma io non voglio, ho studiato, non voglio fare il mungitore. Vabbè, io dico sempre, meglio fare qualcosa che fare disoccupato pur col titolo dottore. Beh, insomma, ognuno la pensi come vuole. Detto ciò, lei mi sta ricordando che questa cosa sta mutando. È immaginabile che muti verso il basso, cioè che poi sia il lavoratore italiano che accetta certi stipendi? Tutto può succedere, la disperazione via via può fare strada e quindi far cambiare un po' certi atteggiamenti. Io non credo che si arriverà comunque a, dal punto di vista... A un'intercambiabilità, diciamo. Tutta l'area di cui parlava poc'anzi, cioè la pianura padana, quindi l'agricoltura, l'allevamento, eccetera, quello è chiaramente il classico esempio di una situazione nella quale sono arrivati gli indiani da Bangladesh, da Pakistan, cioè gente che fa una cosa che chiaramente gli italiani non volevano, i giovani italiani non volevano fare, insomma, c'è poco da dire. Ecco, nella sua esperienza, negli studi comparati, cioè con quello che capita negli altri paesi, il nostro problema è avere un eccessivo numero in percentuale della forza lavoro di extracomunitari o avere un eccessivo numero di extracomunitari non qualificati, cioè le teste italiane, spagnole vanno in la Gran Bretagna, ha una grandissima capacità, voglio dire, nella City di Londra la maggior parte dei lavoratori sono i laureati nelle facoltà di economia di tutta Europa, quindi l'Inghilterra non spende una lira, si becca laureati, non so se i migliori, ma comunque volonterosi, a costo zero perché li hanno già formati le istituzioni spagnole, italiane, portoghesi e quant'altro, ha questa grande capacità di attrarre, becca un'immigrazione di alta fascia. Il nostro problema è che abbiamo troppi extracomunitari o che li abbiamo troppo poco qualificati? Allora, intanto c'è da dire una cosa, che i nostri extracomunitari non sono poi così, dal punto di vista della formazione scolastica, dei qualificati, perché noi abbiamo i muratori che hanno qualche volta la laurea o il diploma da geometra, magari preso in Marocco, però rimane il fatto che comunque il livello formativo è alto. Noi assistiamo appunto a questa acquisizione di persone da altrove con buon livello di formazione. E c'è una cosa, è stato detto prima anche da lei, cioè noi abbiamo negli ultimi 10 anni spedito all'estero circa 100.000 giovani e questo, i dati di censimento dimostrano, tra 2001 e 2011 il confronto viene fuori come per incanto che spariscono dall'Italia tra i residenti 100.000 giovani. E questi giovani sono spesso giovani di ottima qualifica che vanno appunto a Londra. 100.000 all'anno? 100.000 complessivamente nell'ultimo censimento che abbiamo formato noi, molto qualificata e che va ad avere anche successo peraltro in giro per l'Europa o per il mondo. Sì, abbiamo anche un programma che si ragionava su questo, la fuga di cervelli, non so se lei ha mai notato che la fuga di cervelli non colpisce mai la politica, però non so se si è mai accorto su questo. Perché la politica non... E anche i professori universitari e anche i giornalisti, così non, mettiamo dentro, no, nel senso che i cervelli che fuggono sono altri. Si fa finta di niente qualche volta, o non ci si rende conto della dimensione, perché siamo sempre convinti che ormai non siamo più un paese di emigrazione, no, siamo diventati un paese di emigrazione, non più delle valigie di cartone che giravano in giro a fare gli operai, ma di gente qualificata che ci servirebbe per fare il nostro PIL che non cresce. Bene, non mi interessava il dato statistico, e appunto lei insegnando demografia è quello che poteva fornirmeli, grazie, no, ovviamente lo dico che scrive... Era una battuta sul fatto che non ci sia fuga di cervelli dei politici e dei giornalisti e dei professori, non si abbiano male, invece alcuni professori insegnano all'estero e spesso li abbiamo. Ho visto meno fuga di cervelli nella politica e forse anche nel giornalismo. Questo indubbiamente. Grazie Giancarlo Blangiardo, che appunto insegna demografia alla Bicocca di Milano. Immaginabile, insomma, il tema non è privo di una sua connotazione politica, usiamo questo eufemismo, e i vostri messaggi in alcuni casi non sono privi di un giudizio irriferibile nei confronti del conduttore. Ma va bene così, adesso c'è il traffico, poi andiamo sulla borsa, che ha chiuso con un rialzo dell'1%, Milano un po' meglio del resto, Parigi più 0,60, Francoforte più 0,30. E poi Londra più 0,60, l'America in questo momento è invariata, miglior titolo come ricordavamo in apertura Mediaset più 6,90%, peggior titolo tra quelle maggiore capitalizzazione la Popolare di Milano che ha perso il 3,1%, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, il traffico. From your eyes. 17:47 minuti, non posso andare avanti con il tema. Faccio solo notare a chi si fosse collegato più tardi che noi non stiamo parlando degli extracomunitari per quello che è successo con il senatore Calderoli. Adesso obiettivamente questo programma avrà anche difetti, ma cerca di essere un programma serio. Noi ne stiamo parlando perché oggi il Ministero del Lavoro è uscito con il rapporto sull'immigrazione. Abbiamo visto che c'era un tasso di disoccupazione più alto e ha dato anche i dati sulla retribuzione media. Questa è la notizia di cronaca, non Calderoli, per favore. Va bene tutto, ma... Borsa con Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Andrea. Buonasera Sebastiano. Dunque, incerte le borse questa mattina con il dato cinese, leggerissimo rallentamento nella crescita, ma in realtà in linea con le attese. Banche in ordine sparso. Partiamo però da Mediaset, che ha fatto, ripeto, dopo alcuni giorni più altalenanti, più 6,90% a 3,44 euro. Sì, è passato tra l'altro di mano oltre il circa il 2,5% del capitale di Mediaset. Gli operatori sono già tutti proiettati sul prossimo 1 agosto, giorno in cui verranno rilasciati i conti semestrali e in cui si attende dalla società una conferma sull'inversione di tendenza della raccolta pubblicitaria. Che Silvio Berlusconi qualche giorno fa, anche in un'intervista al Sole 24 Ore, aveva detto luglio, primo mese di cambio di rotta, più 3%, e quindi il mercato ha iniziato ad essere ottimista, spera che questo trend continui per la seconda parte dell'anno e soprattutto che la raccolta pubblicitaria possa chiudersi non lontana da un meno 9%, che sarebbe già un grande risultato visto come era già iniziato l'anno di Mediaset con raccolte in calo del 20% mese su mese. E quindi attese anche poi per il 1 d'agosto, no? Dovrebbero essere confermate ma le voci di una possibile alleanza con Sky hanno avuto qualche... No, non hanno avuto, diciamo così, non hanno avuto un riscontro da parte della società, che aveva già commentato a suo tempo quando erano uscite circa un mese fa. È chiaro che il mercato le ritiene una cosa un po' più probabile nella pay TV in Spagna, dove c'è una situazione effettivamente da sistemare, che è quella di Canal Plus, dove Mediaset è azionista in minoranza e gli altri azionisti potrebbero effettivamente aprire all'ingresso di Murdoch, di più difficile anche per ragioni di antitrust sul mercato italiano. Allora andiamo avanti con gli altri titoli invece. Fronte opposto, dicevi, bancari in ordine sparso, però la Pop Milano perde il 3,10%. Sì. Diciamo che i bancari italiani non hanno reagito in maniera compatta a quello che era lo scontato taglio di rating da parte di Standard & Poor's dopo il taglio del rating sovrano italiano della scorsa settimana. La Popolare di Milano vediamo che ormai nelle ultime settimane conferma la sua volatilità e soprattutto l'approccio negativo del mercato, visto che c'è ancora incertezza sia sulla questione aumento di capitale sia sulla questione del cambiamento della società in SPA. Il titolo ha perso il 3,1%, nell'ultimo mese ha perso l'8%, dall'inizio dell'anno meno 27%, a Popolare di Milano molto sotto pressione. Bene invece altri bancari come Intesa San Paolo è stata la migliore, ha guadagnato l'1,5%, seguito da Unicredit più 0,9%. Ancora su Azimut invece ci sono state voci più specifiche, se non ricordo male. E tra l'altro il titolo è il secondo miglior titolo dopo Mediaset, più 3,20%. Sì, per quanto riguarda Azimut, l'indiscrezione nel fine settimana parlava di un interessamento per l'acquisto di un'altra società di credito di gestione del risparmio, e in particolare Anima SGR, un'indiscrezione che la società diciamo non ha smentito, pur sottolineando che non c'è nessun accordo e nessun impegno attivo per l'acquisizione di Anima SGR. Il mercato ci ha creduto per quanto riguarda Azimut, più 3%, ma è rimasto comunque cauto, perché vediamo che alcuni degli azionisti forti di Anima SGR, la Popolare di Milano, appunto ne parlavamo prima, o il Monte dei Paschi di Siena, non hanno beneficiato dalla possibilità di una possibile vendita, da prospettiva di una possibile vendita, e quindi si sono mossi in maniera negativa o incerta. Comunque questo è stato il fattore che ha spinto Azimut oggi. Ancora tra i titoli Telecom, tra l'altro stasera ci sarà un consiglio di amministrazione di Telecom, no? Sullo scorporo, però il titolo alla fine era un po' debole, ha chiuso invariato. Sì, assolutamente, per Telecom si attende quello che sarà l'esito del consiglio di amministrazione che si terrà in serata. Sul tavolo la questione della riduzione delle tariffe proposta dall'autorità delle comunicazioni, ma è strettamente legato è il tema dello scorporo della rete, perché un eventuale calo delle tariffe di vendita all'ingrosso potrebbe avere delle conseguenze sul progetto di scorporo della rete. Il mercato però è sempre stato abbastanza freddo sulla questione della rete e ancora oggi non ha né premiato né penalizzato il titolo, aspettando l'esito del consiglio di amministrazione di questa sera. Altri titoli: di Assorin più 2,40, Campari più 2,20, Fiat più 2 come Steam Microelectronics e Prismian ed Exor, Monte dei Paschi più 1,80, Ansaldo STS più 1,60 come Salvatore Ferragamo, l'1,5% lo guadagna Generali, ma anche Intesa San Paolo ed Eni ed Atlantia, l'1,30 Pirelli, l'1% Enel. Migliori e peggiori in assoluto, oltre a Mediaset, che è in assoluto il miglior titolo oggi, Arena più 6%, Banco di Desio più 5%, Banca Profilo più 5%, Pop Sondrio più 4,70, peggiori in assoluto Ceramiche Ricchetti meno 7,80, Ergi Capital meno 7 come Panaria Group, RCS Media Group sulle risparmio perde il 6,60%. Grazie a Andrea Fontana, Radio Cori sulle 24 ore. Buonasera a voi. C'è un messaggio che devo leggere, perché scrive un ascoltatore: il problema non sono i cervelli che fuggono, ma le teste che restano. Dai, non ci buttiamo così giù. Vabbè, la battuta di Crozza la sappiamo: i cervelli dei politici fuggono, ma è il corpo che resta qui, anche questo lo sappiamo. Invece oggi siamo una puntata fatta apposta, perché partiamo sul lavoro extracomunitario, finiremo poi nella seconda parte sull'utilizzo dei fondi europei, e adesso ci occupiamo di federalismo fiscale, perché anche qui io l'ho battezzata oggi la puntata contro i luoghi comuni, perché il federalismo fiscale, che noi abbiamo sempre sposato sui costi standard, sulla possibilità di avere un controllo più diretto e anche appunto di rendere più trasparente la gestione, il federalismo fiscale ha portato a un aumento della tassazione del 500%, cioè il gettito locale ha fatto più 500% dal 92 negli ultimi 20 anni, e nel frattempo la spesa delle regioni, delle province, dei comuni è aumentata dal 92 ad oggi del 126%, quella degli enti previdenziali del 127%. E il dato non è politico, è della Confcommercio, ecco perché ringrazio il direttore dell'ufficio studi, Mariano Bella. Buonasera Bella. Buonasera. Adesso io abbiamo 30 secondi, ma mi dica una cosa: questo 500% in più di tasse tra comuni, province e regioni non è riequilibrato chiaramente da minori tasse a livello nazionale? Dica solo sì o no e poi ci arriviamo dopo. Sì, ed è questo il punto tragico. Cioè ci sono più tasse nazionali e più tasse locali? Ah, perfetto. Ah boh, GR, poi mi sa che dobbiamo parlarne. 349-238-6666 per gli sms. minuti, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Dunque, abbiamo appena fatto in tempo ad accennare, prima del GR, al dato di oggi diffuso dalla Confcommercio, in collaborazione con il CER, ha analizzato le dinamiche legate al federalismo fiscale a partire dal 1992 e si è accorta di due cose. La prima, che le imposte riconducibili alle amministrazioni locali, quindi comuni, province, regioni, sono aumentate del 500%, da 18 a 108 miliardi di euro. Seconda cosa, che negli ultimi 20 anni la spesa corrente, non gli investimenti, delle amministrazioni centrali, Stato e altri enti è cresciuta del 53%, la spesa corrente di regioni, province e comuni del 126%, e quella degli enti previdenziali del 127%. Tant'è che il presidente della Confcommercio Sangalli ha detto che è un aumento di tasse incompatibile con la ripresa. Mariano Bella, direttore del centro studio della Confcommercio, di nuovo buonasera, visto che l'ho fatta parlare per un minuto. Buonasera. Scarso. Allora, la domanda che pongono molti ascoltatori, vi prego, ponete le domande, ma aspettate che le faccia anch'io e aspettate soprattutto la risposta, è inutile insultare mentre si pone la domanda. E no, lo dico come percorso logico, uno pone una domanda, sente se la faccio, se la pongo anch'io e se arriva una risposta, e poi se non è contento magari insulta, ecco. Diamo una logica anche all'insulto aristotelica. Allora, la domanda è: ma le tasse degli enti locali e anche le spese correnti sono aumentate perché hanno ricevuto meno soldi dallo Stato centrale e hanno avuto più competenze? Beh, in qualche misura sì, cioè è anche un risultato naturale del decentramento più che del federalismo il fatto che dando più compiti agli enti locali ci sia maggiore spesa e ci siano minori trasferimenti, però di fronte a queste due cose ci deve essere una riduzione del carico fiscale prelevato dal centro, perché sennò le cose non tornano, perché non è che negli ultimi 20 anni noi siamo passati da un'Italia normale al paradiso terrestre, per cui abbiamo servizi, i nostri figli vengono presi col pulmino e portati a scuola, la sanità funziona perfettamente. No, sostanzialmente il livello di servizi in alcuni casi è peggiorato, in alcuni casi è rimasto costante. Quindi questo incremento del carico tributario e contributivo, soprattutto tributario, sostanzialmente replica un elemento di duplicazione, cioè c'è qualcosa che non va. Il messaggio che volevamo lanciare con la nota di oggi è: come tutte le cose dell'uomo e degli stati, anche la riforma federale ha bisogno, come dire, di un tagliando, di un check-up per vedere dove siamo arrivati e che cosa c'è da aggiustare. Noi crediamo che ci sia molto da aggiustare, soprattutto una cosa: la mancanza di chiarezza e la mancanza di coordinamento delle imposte tra diversi livelli di governo. Ecco, era la risposta che temevo conoscendo questo paese, e cioè non ha un senso il federalismo fiscale se tu, per carità, fai prelevare le tasse più nel territorio e magari qualcosa in più resta sul territorio, c'è un maggior controllo, certo. Però tu mi abbassi l'imponibile nazionale. Certo. Altrimenti qui abbiamo un aumento della tassazione nazionale, o comunque non un calo, e un aumento della tassazione locale, perché il giochetto, devo dire in questo caso forse non è nemmeno colpa degli enti locali, dello Stato è dare nuove deleghe e togliere i trasferimenti agli enti locali, non riducendo la sua di pressione fiscale, obbligando di fatto gli enti locali a reperire queste risorse con un aumento della pressione fiscale di carattere locale. Ma era scritto anche nelle varie leggi delega sul federalismo regionale, non l'ultima, quella del 2009, io la cito in maniera chiara così gli ascoltatori lo capiscono, dice: si prevedeva che l'esercizio dell'autonomia tributaria non può comportare da parte di ciascuna regione un aumento della pressione fiscale a carico del contribuente. Beh, questo principio forse anche, diciamo, per motivi comprensibili c'era un buco pregresso, eccetera, ma questo principio purtroppo è stato disatteso e ci troviamo in una situazione nella quale una piccola attività commerciale, faccio un esempio, che sta in Trentino e rispetto alla stessa attività commerciale, equiparando le basi imponibili che sta, non so, in Molise o in Campania, e beh, insomma, quella del sud paga il 20-22% di imposte in più tra IRAP, IMU e IRPEF a causa delle diverse addizionali regionali, provinciali e soprattutto comunali che si prelevano dal contribuente. E però a un certo punto bisogna anche domandarsi: ma cosa giustifica queste differenze di prelievo? Perché se avessimo attuato realmente il federalismo come dovevamo fare, come forse chissà, speriamo in futuro riusciamo a fare, allora le popolazioni, le collettività locali diranno: beh, io voglio molti servizi pubblici, pagherò più tasse per avere più servizi pubblici, un'altra regione dice: ne voglio di meno, pago meno tasse. Ma qui non c'è una strategia, queste cose si sono sedimentate in maniera oscura e quindi bisogna assolutamente rivedere. Sì, ecco, forse la parola chiave è strategia, perché uno deve avere una visione non c'è un disegno, una visione complessiva, dire: perfetto, lo Stato centrale Toglie i trasferimenti a regioni, comuni e enti locali, dà delle competenze in più, quindi carica un po' meno di tasse, lo dico in maniera un po' brutale, ma come IRPEF nazionale, poi il comune, la provincia, la regione, in base anche a come ha gestito i suoi conti pubblici, i suoi conti locali, dovrà trovare queste risorse. E allora io magari votando potrò dire voto quel governatore perché non mi ha aumentato, o quel sindaco, quel presidente di provincia non mi ha aumentato l'addizionale, oppure non lo voto perché ha gestito male la cosa pubblica e quindi io pago molto di più di mio cugino che abita nella regione accanto. Ponderando sempre il gettito con la qualità e la quantità dei servizi erogati. Mm-hmm. Invece qui si è andato addirittura al contrario, pensiamo al caso dell'IMU, imposta municipale unica, che poi unica non è. E una larga parte di questa imposta municipale è prelevata dai comuni, ma finisce nelle case dello Stato centrale come fosse un tributo erariale. E questa è un'incursione nell'autonomia impositiva dello Stato centrale che non può funzionare. Cioè, noi siamo in una fase di transizione che non finisce mai. Se dobbiamo fare questo federalismo, fermiamoci un attimo, vediamo quello che non va e aggiustiamo le cose. Perché così il contribuente, il cittadino italiano sta diventando semplicemente un pagatore di tasse, perché non ha voce in capitolo nel decidere. Sì, c'è un'obiezione a questo che giro, anche perché ci ha raggiunto il collegamento per parlare di altro, dei fondi europei, che giro però anche a Massimo Bordignon, che è esperto di federalismo, insegna scienze delle finanze alla Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, professore. Buonasera, la sento. Dico, c'è un punto cruciale. Allora, se io devo pagare 60 euro un pasto in ospedale in Campania e 6 euro in Veneto, ho una sacca di plasma 16 a Reggio Calabria e 1 in Val d'Aosta. È chiaro che è giusto che il cittadino calabrese paghi più tasse alla sua regione e quindi si comporti di conseguenza nel voto. Dice: ti bastonano di tasse perché si stanno mangiando la spesa sanitaria regionale, io non ti voto. Questo è un principio di federalismo fiscale. Certo che introdurre costi standard sarebbe servito. Però mi dica una cosa, Bordignon, è così che è successo? Perché io potrei anche accettare di pagare più tasse nella mia regione, perché questo poi si tramuta in voto politico, perché la mia regione è stata male amministrata, ma c'è un corrispettivo così forte tra aumento delle addizionali IRPEF e cattiva gestione della regione, al di là dei trasferimenti dello Stato? Beh, dunque guardi, sono entrato adesso nella trasmissione, per cui non so che cosa vi siete detti prima. Se il riferimento a quello studio è stato fatto oggi... Sì, con la Confcommercio, c'è il direttore del centro studio di Confcommercio in collegamento, Marino Bello. Ah, buonasera a lei. No, e qui insomma i dati che sono presentati sono anche corretti, appunto in parte quella pressione più elevata dipende proprio dal fatto che tutto in una serie di queste regioni sono commissariate, cioè in Lazio come in buona parte delle regioni del sud, proprio a seguito del commissariamento per la sanità, che dipende di nuovo dal fatto che ci sono stati malgestioni, malfunzionamento, e conseguentemente avremmo dovuto forse introdurli prima i costi standard, comunque prevedere. Non li abbiamo ancora introdotti, non li abbiamo ancora introdotti. No, non sono, lo so bene, si figuri. Ma voglio dire, avremmo potuto fare uno sforzo maggiore per cercare di razionalizzare e controllare la spesa. Comunque, come uno dei modi attraverso il quale, secondo me, anche giustamente, perché questo è un modo per cui i cittadini percepiscono anche l'inefficienza della propria amministrazione regionale o comunale, sono state a queste regioni è stato imposto di portare al massimo livello tutte le aliquote. Ecco perché la pressione fiscale appare paradossalmente più elevata in regioni in cui la qualità anche del servizio è più basso, ma il problema è che in queste regioni dove la qualità del servizio è più basso anche la spesa è particolarmente elevata, quindi abbiamo una sorta di paradosso. Cioè ospedali, siccome il 70% del buco è sanitario, ospedali peggiori che costano di più, massimo della vita, no? Sì, cattiva programmazione, se vuole, se lei vuole, se la risposta è: come mai la sanità costa un po' meno e più efficiente al nord di quanto sia al sud? Perché da diverso tempo è stata fatta un'operazione di programmazione, sono state ridotte, allora, eliminate le spese. Capacità di programmazione e quindi gestione della cosa pubblica e forse anche qualche infiltrazione mafiosa in meno. Questo anche senz'altro, ma indipendentemente da quello, cioè voglio dire, ci sono delle cose immediate, no? Nel sud, se lei controlla, la spesa per farmaci è più elevata per parità di principio attivo che succede al nord, c'è un numero più elevato di ospedali, se ospedali sono troppo piccoli, non sono sufficientemente specializzati e via discorrendo. Allora, nel ringraziare Mariano Bella, vuole commentare una cosa rapidissimo perché devo passare all'ultimo tema, Bella? Sì. No, non vuole commentare? No, commento, no, dico solo una cosa, che ad oggi mi pare che manchino dei pezzi o addirittura degli interi decreti attuativi necessari a fissare dei punti fermi, che sono i benchmark in termini di costi e di fabbisogni standard. Beh, torniamo ai costi standard, lì io non capisco perché tutto si sia di nuovo bloccato. Era una cosa così logica, cioè troviamo la media, la sacca di plasma, la garza, il cerotto, deve costare la stessa cosa in tutto il paese. Ho capito che l'Italia è lunga, ma non è così lunga. Lunga da giustificare. No, forse quadro, qualcuno conviene che non vi sia il costo standard. Nemmeno il Cile, nemmeno il Cile è così lungo. Grazie a Mariano Bella, direttore del Centro di Confcommercio. Il traffico e poi l'ultimo tema, i fondi europei che non riusciamo a spendere. Di 50 miliardi di euro di fondi strutturali che l'Europa ci ha dato e che dobbiamo spendere entro il 2015, siamo riusciti a spendere per adesso 20 miliardi. Ci sono 30 miliardi, che sono 17 miliardi di euro di fondi europei, più 13 miliardi di cofinanziamenti a progetti nazionali, 30 miliardi in totale, che devono essere spesi entro il 31 dicembre 2015. Nella classifica europea noi siamo al penultimo posto, peggio di noi solo la Romania. Perfino Spagna e Grecia riescono a spendere più di noi dei soldi che l'Europa ci dà e che se non spendiamo dà a qualcun altro. La nostra media è 38%, la Spagna e la Grecia 61%, come la Germania. Ed è un lusso che non possiamo permetterci. Mentre saluto e ringrazio anche Gianfranco Viesti, che insegna economia all'Università di Bari. Buonasera. Bordignon, questo e poi Viesti, perché ho 9 minuti scarsi. Il motivo vero qual è? Che non sappiamo progettare, fare i finanziamenti? Qual è? Fare i progetti per che vengano finanziati? Ma ci sono tante ragioni secondo me. Secondo me c'è un'eccessiva parcellizzazione di questi. Ne abbiamo discusso a lungo anche con Viesti in altre occasioni. C'è un'eccessiva parcellizzazione di questi investimenti. Troppe iniziative. Troppe iniziative, troppo piccole. C'è bisogno di una regia, un livello un po' più alto che definisca quali sono gli interventi che vogliamo fare e che cerchi limitarli e puntare su alcune cose strategiche. La responsabilità non è solo nostra, perché anche la complessità di questi sistemi come sono disegnati, però insomma in un certo senso il fatto che noi riusciamo a far sempre peggio degli altri ci dice che il problema è nostro. Cioè, sono difficili anche per i greci, anche per gli spagnoli, anche appunto, per i francesi. Per cui, voglio dire, qualche cosa di più. Va detto che noi nel passato ne abbiamo spesi quasi tutti, 99%, però attenzione, perché io dicevo all'inizio del programma, spendere 10.000 euro per la giostra del Castrato a Longobucco in provincia di Casenza, spendere 8.000 per la festa dell'uva Catanzaro, spenderne 10.000 per il piano di comunicazione del gemellaggio Miami-Meets Margherita di Savoia nel comune Margherita di Savoia in provincia di Barletta, o spendere 14.000 per le conversazioni del venerdì a Vibo Valentia, non mi sembra un investimento per il futuro strutturale, per l'occupazione dei nostri figli. Detto ciò, Viesti, qui c'è lei che studia il sud da sempre, senza luoghi comuni, senza parocchi. C'è un problema di difficoltà dei bandi, di progetti, come dice anche Bordignon, troppi piccoli progetti per cui alla fine diventa un caos, o manca dentro i corpi tecnici delle nostre amministrazioni regionali, oltre che statali, la capacità di fare di avere delle persone formate per questo, di fare della programmazione su questo? Guardi, questa vicenda è lo specchio dell'Italia in cui viviamo, nel senso che i ritardi valgono sia per le amministrazioni regionali che per quelli centrali. Sono più forti al sud, come spesso accade, ma ci sono anche al nord, che fa peggio delle regioni sviluppate europee. E dipendono, come diceva Massimo Bordignano un attimo fa, da un insieme di cose, non c'è solo un elemento. Certamente un punto fondamentale è questo, che con questi fondi si fa un po' di tutto, anche perché sostituiscono le politiche nazionali che si sono progressivamente indebolite, e facendo un po' di tutto ovviamente la loro complessità diventa estrema, soprattutto quando sono gestite dalle amministrazioni regionali. Adesso prima Bordignano e poi Viesti, visto che siete così bravi con i tempi, la soluzione, cioè se domani vi chiamasse Moavero o comunque Letta, voi che cosa gli direste? Bordignano, cioè come si fa a utilizzare questi soldi? Sono 30 miliardi da qua al 2015, sono due manovre finanziarie, due punti di PIL. Sì, allora mi faccia solo dire due cose su questo. Primo, tenga presente, sono in un certo senso soldi nostri, noi parliamo dell'Europa, certo, ma vero, noi siamo dei contributori e poi ne riceviamo, e ultimamente siamo anche diventati dei contributori netti, cioè diamo più soldi all'Europa di quanti le riceviamo. Quindi se non riusciamo a rimettere a posto questi soldi, c'è anche da domandarsi se vale la pena continuare in questo percorso qui. Secondo aspetto, secondo me la cosa importante adesso è che vanno anche un po' riportati su altre iniziative. Qui il problema è che dobbiamo appunto discuterne con l'Europa, perché secondo me adesso le emergenze sono diverse rispetto a quelle del passato. Ci sono alcune infrastrutture su cui intervenire, ma molte di queste dovranno essere utilizzate per il sostegno alla povertà, per cercare di far ripartire la crescita, e anche, secondo me questo è un altro tema importante, per cercare di utilizzarle in maniera intelligente per dare un po' più di credito all'economia. Cioè, su questo si gioca davvero una partita molto importante, per cui se dovessi andare io da Moavero o da Trigilia, perché lui se ne occupa, direi qui ci vuole in qualche modo una razionalizzazione, una centralizzazione, discutere rapidamente con l'Europa per utilizzare almeno una parte di questo su quelle che sono le nostre emergenze attuali. Quindi diciamo la destinazione d'uso leggermente diversa: occupazione, politiche sociali, oltre che opere infrastrutturali. E sostegno al credito delle imprese. E sostegno al credito delle imprese. Un veicolo e usare i fondi europei come forma di garanzia per aumentare il credito. Sì, stanno attenti a non cadere in quel principio che è l'aiuto di Stato, che qui l'Unione Europea è molto. Appunto, va discusso con sensibile. Loro. Va discusso con loro. Perfetto, Viesti? Dunque, non vorrei che gli ascoltatori pensassero che ci sono davvero 30 miliardi a rischio. Quello che dice il ministro Trigilia nell'audizione in Parlamento e che ce ne sono 4 di questi 30 su cui ci sono dei dubbi e su cui bisogna giustamente monitorare. Per fortuna il nostro paese non ha mai restituito niente. Il fatto che siano lenti non è una buona cosa, ma perderli è molto peggio che essere lenti. In realtà su questo, da quando c'è qualcuno al governo che se ne interessa, perché c'è stato per diversi anni un po' un'assenza dell'interesse della politica nazionale, si è fatto molto. Barca ha riprogrammato 12 miliardi mettendoli al sicuro su grandi infrastrutture o anche su una serie di esperimenti interessanti di sostegno ai servizi pubblici. Trigilia è appena arrivato, ne ha già riprogrammato uno e l'ha destinato a incentivi per l'occupazione e a interventi comunque sulle fasce giovanili. Credo che stia lavorando anche su altro. Barca aveva messo in piedi una buona collaborazione con le regioni, cioè non vorrei che passasse il messaggio che nessuno se ne è accorto di questo. Sono molti anni che si sta intervenendo per migliorare, ci sono delle buone storie da raccontare e alla fine chissà che anche questa storia non possa essere una di quelle vicende di cui le enormi debolezze del nostro paese in tutte le strutture, perché sa, la cosa più triste è che sia in questo ciclo che nel precedente è il grande piano operativo delle infrastrutture nazionali quello che non funziona, cioè quello con cui si fanno le strade, i porti e le ferrovie. E prego Viesti? È caduto nel momento finale. Viesti, no? Mi sente Viesti? No, non riusciamo più a recuperarlo, però volevo fargli i complimenti invece, oltre che a Borgnone, anche al professor Viesti, perché avevo definito all'inizio questa puntata una puntata contro gli stereotipi e i luoghi comuni, soprattutto sul lavoro degli extracomunitari da un lato, sulla pressione fiscale col federalismo fiscale dall'altro. E mi ha fatto molto piacere, Viesti, la sto ringraziando, adesso è di nuovo in collegamento. Sì, ma io vi ho sentito, grazie. Ma noi no, sai com'è, in radio ci vogliono tutte e due le parti. Ah, non c'è dubbio. È come nei rapporti di coppia, però dico, se no non possiamo fare l'onanismo diciamo, radiofonico. Detto questo, volevo ringraziarla perché lei ci ha dato una buona notizia, anche qui fuori dai luoghi comuni, che non abbiamo mai restituito un euro, e soprattutto, ministro Barca prima, Moavero adesso... sono stati già messi in sicurezza quindi questi miliardi, le cose stanno lentamente cambiando, non bisogna sempre pensare che tutto vada per il peggio. Grazie quindi a Gianfranco Viesti e grazie anche a Massimo Bordignon. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata e noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.